Vabbè, allora intanto buonasera, più raccolti di così non si poteva essere, e comunque ci sono abituato, cioè se vado in giro a parlare a volte ho delle platee ampie, cioè 30 persone, a volte ristrette. Dunque io dovrei parlarvi del mio libro, Prove di un mondo diverso. Questo libro è una raccolta di articoli e di note di lavoro non pubblicate, che più o meno sono state scritte tutte negli ultimi, tranne una o due, nel corso degli ultimi 2 anni, nel corso di 2 anni fa, che parlano della crisi e soprattutto della conversione ambientale. Allora, della crisi non sto a annoiarvi, perché poi ho visto che magari voi avete seguito anche le riunioni precedenti, ne avete già ampiamente parlato, eccetera, no? C'è una crisi di carattere planetario, cioè investe tutti i paesi del mondo, è scoppiata per motivi finanziari, ma poi è immediatamente diventata una crisi economica, in molti paesi del mondo occupazionale, cioè colpito, occupazione e redditi delle fasce più deboli della popolazione, e continuerà a farlo. Ma al fondo di questa crisi finanziaria e ambientale c'è una crisi finanziaria e economica. C'è, ne parleremo in seguito, sullo sfondo una crisi ambientale di cui avrete sentito e saprete tantissima anche più di me, dovuta al fatto che stiamo vivendo al di sopra delle possibilità dell'intero pianeta di alimentare con le sue risorse le attività economiche che si stanno svolgendo. Cioè, stiamo consumando la terra, ogni anno calcolano più o meno la data in cui abbiamo consumato tutte le risorse riproducibili che si producono nel pianeta nel corso di un anno, e da quel momento in poi tutto quello che stiamo consumando lo stiamo prelevando dal capitale, cioè dal capitale della terra. Cioè stiamo consumando anche quello che non è stato prodotto nel corso dell'anno, e quindi a detrimento degli anni futuri. Ogni anno questa data si sposta un po' più indietro. Adesso siamo, non mi ricordo più esattamente la data, ma intorno a settembre, grosso modo. Come si calcola questa cosa qua? In maniera molto semplice. Calcoliamo le risorse rinnovabili, cioè quelle prodotte dall'agricoltura o dalle foreste o dalla pesca, no, che quindi dovrebbero rinnovarsi ogni anno, e per quello che riguarda le risorse non rinnovabili vediamo con quali risorse rinnovabili potrebbero essere sostituite. Le sommiamo insieme e vediamo quante ne consumiamo. Allora, quest'anno grosso modo intorno a metà di settembre, nell'anno scorso, nel 2009, intorno a metà di settembre abbiamo consumato tutto quello che in un anno si produce o che potrebbe sostituire. Il resto è consumo proprio della capacità della terra, del pianeta, di produrre ancora qualcosa. Ogni anno questa data arretra di un pochino, cioè l'anno scorso era ottobre, quest'anno è settembre, l'anno prossimo sarà probabilmente ad agosto. La crisi ha rallentato un pochino questo andazzo, perché nel corso degli ultimi 2 anni si è prodotto un pochino di meno, quindi si sono consumate meno risorse, ma il trend continua. Tra l'altro, nel consumo delle risorse va annoverato non soltanto quello che noi usiamo per produrre, ma anche quello che noi consumiamo e distruggiamo senza ricavarne assolutamente niente. Per esempio, in questi giorni siamo al cospetto del più grande disastro ecologico della storia, dicono degli Stati Uniti, ma probabilmente della storia degli ultimi 2 secoli, cioè il disastro dei pozzi petroliferi nel Mar dei Caraibi, nel Golfo del Texas. non è ancora stato nemmeno valutato, insomma, quali siano le dimensioni effettive di questo disastro, ma effettivamente lì ci sono delle risorse, e non si tratta soltanto del petrolio disperso in mare, anzi questa è la cosa minore, ma è delle diversità biologica, della vita marittima, delle coste, della vegetazione e della possibilità per la vita biologica di riprodursi, compromessa per i prossimi 50 anni, che quindi va messa nel conto delle risorse che noi nel corso di quest'anno stiamo consumando, e che quindi anche senza un aumento della produzione dei beni che circolano faranno arretrare ulteriormente la data in cui ci siamo mangiati tutte le risorse del pianeta. Comunque chiudo lì, poi magari se quando ho finito di blaterare ne discutiamo un pochino, se avete delle domande, delle osservazioni, delle critiche da fare, magari sulla crisi ci ritorniamo. Al centro di questo libro di cui vi parlo stasera c'è il concetto di conversione ecologica o conversione ambientale. È un termine che è stato introdotto da un personaggio per me molto importante nella mia vita, ma anche nella cultura europea di questi anni, che si chiama Alex Langer, si chiamava perché è morto, suicida nel 1995, che è stato, intanto è importante capire la sua biografia, la sua vita, molto brevemente. Dunque, lui è ebreo di nascita, cioè figlio di genitori ebrei, si è convertito da giovane, personalmente, non la sua famiglia, al cattolicesimo, ha frequentato delle scuole cattoliche, poi ha militato in un gruppo della sinistra rivoluzionaria degli anni 70, in cui ho militato anche io, che si chiamava Lotta Continua, poi è stato il fondatore in Italia delle liste verdi, poi è anche stato quello che ha proposto di sciogliere le liste verdi perché gli sembravano particolarmente compromesse con delle pratiche da politicanti, eccetera, ma comunque è stato nominato per due legislazioni di seguito deputato europeo ed è stato il portavoce per due legislazioni, il portavoce del gruppo Verdi a livello europeo, e poi è stato incaricato dal Parlamento europeo di occuparsi in particolare di promuovere dei processi di pace o di convivenza all'interno della ex Jugoslavia, dove era scoppiata la guerra di Bosnia, e lui era particolarmente adatto per questa cosa qua, perché essendo era altoatesino, no, di nascita, o su tirolese a seconda delle versioni, cioè essendo nato e cresciuto in un ambiente bilingue, non soltanto bilingue, dove ci sono due comunità etniche che ogni tanto, tra cui ogni tanto ci sono delle frizioni molto forti, spesso alimentate anche dai governi centrali, eccetera, fin da giovane, insomma, si era occupato di cercare di creare un ponte di convivenza, di comprensione reciproca tra due comunità diverse. E quindi in Jugoslavia quello che ha cercato di fare è esattamente la stessa, tra serbi e croati, tra cristiani e musulmani, ha percepito molto fortemente il suo fallimento e si è suicidato, tra l'altro alla vigilia, non ha potuto vederlo per sua fortuna o disgrazia, eccetera, la strage di Srebrenica, che è avvenuta proprio 5-6 giorni dopo la sua morte, in cui, come molti di voi sanno, no, sono stati massacrati a sangue freddo, portandoli nel bosco e sparandoli in testa, 5.000 giovani e uomini musulmani dalle truppe di Karadžić, dei serbi della Croazia, della Bosnia. Allora, questa storia ve l'ho raccontata molto brevemente per farvi capire e cogliere il significato della parola conversione, poi vediamo cosa vuol dire anche ecologica. Cioè, ci troviamo di fronte a un personaggio che aveva evidentemente anche una storia personale, religiosa, spirituale, cioè non era assolutamente un cattolico praticante, insomma, però aveva frequentato molto i preti e il clero, insomma, nella sua giovinezza, è stato tra l'altro un allievo di Don Milani, quello che ha curato e ha promosso la lettera a una professoressa di cui forse qualcuno di voi ha sentito parlare, che è una delle critiche più radicali della scuola classista, tra l'altro che è stato uno dei manifesti su cui era, si è riconosciuto ed è cresciuto il movimento del 68, quindi, oltre 40 anni fa, italiano. Allora, nel termine conversione c'è un risvolto duplice. Da un lato è, diciamo, un movimento interiore, cioè un cambiamento soggettivo. E dall'altro invece è un cambiamento delle strutture in cui noi viviamo, della società di cui facciamo parte. E le due cose sono strettamente legate. Conversione è un termine di origine, se vogliamo, religioso, accenna al, a un cambiamento delle cose, ma quello che Alex Langer voleva intendere no, è che non è possibile cambiare la società in cui noi viviamo se contemporaneamente non facciamo uno sforzo per cambiare anche noi stessi. E non è uno sforzo di carattere puramente spirituale, cioè nel senso che ci convinciamo che Dio esiste oppure non esiste, che bisogna perseguire la giustizia piuttosto che il profitto e cose di questo genere. È un cambiamento nei nostri stili di vita e nei nostri modelli di consumo. No, cioè bisogna adottare una vita più sobria, cioè cercare di sprecare meno le risorse della terra con dei consumi superflui, ma la cosa più importante, cioè che il pensiero di Alex è appena accennata, ma che negli anni successivi abbiamo avuto modo di capire e comprendere molto meglio, che un cambiamento nei nostri consumi non è possibile farlo individualmente. No, cioè perché al supermercato e nei negozi troviamo esclusivamente le cose, possiamo scegliere fra una marca e un'altra, fra una che sia più biologica e una o meno, fra una che abbia più imballaggio e una che sia meno, però possiamo usare un sacchetto pluriuso invece di sacchetti di plastica a perdere per fare la spesa e così via. Però insomma la gamma delle scelte possibili che noi possiamo fare è, come consumatori individuali, come persone che devono approvvigionarsi delle cose da mangiare, da vestire, della musica, del divertimento, eccetera, è molto limitata. Invece una possibilità di cambiare molto i nostri stili di vita, i nostri consumi, è dato dal fatto che ci associamo con altre persone e adottiamo delle modalità di consumo collettivo. Quasi tutte le cose di cui vi parlerò nella seconda parte di questo mio, di questa mia presentazione attengono al consumo collettivo. La più semplice, più nota, credo che ci siano anche in Svizzera sviluppate, ma comunque in Italia nel corso dell'anno scorso e di quest'anno hanno avuto uno sviluppo proprio esponenziale, un andamento esponenziale, sono i GAS, gruppi di acquisto solidale, con cui delle persone che si associano, mai più di 30-40 famiglie, in genere 10-15, perché quando superano quel numero lì, siccome si devono gestire le attività direttamente, non delegarle a nessuno, diventano troppo grandi e si spezzano. Cosa fanno? Si approvvigionano di cibo, no? Innanzitutto direttamente, saltando la mediazione direttamente dai produttori, poi scegliendo i produttori biologici o quelli che comunque fanno un uso di ingredienti artificiali minore possibile, e soprattutto a chilometri zero, cioè andando a cercare i produttori che sono più vicini al loro territorio. Non sempre lo possono fare, per esempio comprano anche a Milano, ne parlo, delle arance, e le arance a Milano in Lombardia non crescono, si vanno a comprare in Sicilia, quindi lì i chilometri ci sono. Cercano soprattutto di non comprare cibi del terzo mondo che vengono dal sud del mondo, ma non sempre, no? Perché comprano anche frutta esotica in quantità ovviamente limitata, cercando di sostenere attraverso forme di commercio eco solidale delle cooperative, delle organizzazioni di contadini del sud del mondo che producono in maniera più ecologica possibile, eccetera. Ma sostanzialmente questa è una forma di consumo, no, certo individuale, perché ciascuno poi si mangia la propria e si cucina la propria spesa, ma che per essere realizzata ha bisogno di cose collettive. Ma lo stesso vale, per esempio, no, per il, se lo vedremo, per il passaggio a delle forme di energia rinnovabile, di fonti rinnovabili, rispetto al consumo di petrolio. Cioè l'installazione di pannelli solari, per esempio, sia termici che fotovoltaici, sulle proprie case, a parte che bisogna disporre di un tetto e quando si vive in un condominio bisogna mettersi d'accordo con tutti gli altri abitanti dello stesso condominio, cosa difficilissima in particolare in Italia, dove le assemblee di condominio sono un incubo. Ma poi anche invece chi ha la propria casetta, quindi o la propria cascina, quindi la possibilità di montare sul tetto, sulla tettoia di un garage, di dei pannelli, no? È molto difficile farle individualmente per tutte le procedure complessissime che ci sono, mentre se ci si associa con degli altri, ci sono ormai anche in Italia dei programmi che stanno andando alla maggiore, per esempio uno che si chiama 1000 tetti voltaici, che è partito ormai alla grande in Umbria e che poi adesso sta investendo molte province della Sicilia e della Campania e della Calabria, no? In cui 1000 persone vengono ovviamente contattate, reclutate, eccetera, si associano e fanno un contratto collettivo con l'Eni. Lo sapete, con i tetti fotovoltaici c'è uno scambio di energia, cioè un po' la produco io, se ne consumo più di quella che produco la posso comunque attingere dalla rete, se ne produco di più di quella che consumo la posso cedere alla rete. In Italia è molto ben incentivata questa cosa qua, cioè in Italia ci sono gli incentivi più alti del mondo in questo periodo per il fotovoltaico, adesso li stanno per chiudere, eccetera. Ma comunque, cioè, tali e tante sono le complicazioni, le difficoltà per farsi individualmente il proprio tetto fotovoltaico, che invece il processo di associazione permette di farlo molto più facilmente, facendo un contratto collettivo con l'azienda che distribuisce elettricità e quindi spuntando anche dei prezzi più favorevoli sia per comprare l'energia sia per rivenderla. Faccio un altro esempio, all'ordine del giorno, ormai ne parleremo meglio, c'è la mobilità flessibile, oltre, no, che il potenziamento del trasporto pubblico, per fare a meno o ridurre il ricorso all'automobile individuale, cosa importante dappertutto, ma in Italia particolarmente urgente, perché l'Italia è il paese più motorizzato del mondo, cioè ha il tasso di rapporto fra abitanti e automobili più alto del mondo e sicuramente il più alto d'Europa, no? Bisogna offrire, cioè non si può fare tutto col servizio pubblico, no? Con gli autobus, con i tram, con il treno, eccetera, perché chi abita in situazioni disperse o nelle ore in cui il servizio non funziona, eccetera, c'è la necessità di arrivare comunque a raggiungere la propria destinazione. Prendere un taxi individuale ovviamente costa moltissimo, invece ci sono ormai le tecnologie che permettono di condividere il mezzo e di abbinare persone che fanno lo stesso percorso nella stessa ora, hanno una destinazione non uguale ma compatibile, esattamente come si fa col carpooling, no? Il carpooling se lo organizza ciascuno per conto proprio, mettendosi insieme degli amici, invece il taxi collettivo o il trasporto a domanda è una cosa che viene organizzata centralmente e attraverso un centralino, insomma, che combina fra di loro i percorsi compatibili. Questa è una forma di consumo collettivo dei mezzi di trasporto personalizzato, cioè che poi ti porta a casa, ti viene a prendere a casa all'ora che vuoi, fa fare il percorso che vuoi. Funziona da nessuna parte in questa maniera così completa, funziona in molti posti, per andare all'aeroporto, per andare alla stazione, in certe aree deboli, eccetera, però insomma con tempi di attesa molto lunghi, ma potrebbe funzionare se è molto ampia la platea delle persone che lo utilizzano e è molto ampia la platea dei taxisti, che invece di fare i taxisti individuali fanno i taxisti collettivi. È un altro esempio classico di consumo collettivo, cioè ciascuno si fa il suo viaggio per conto proprio, anzi personalizzato, da porta a porta, cosa che in automobile non si riesce, soprattutto in Italia non si riesce quasi più a fare, perché non trovi mai posteggio vicino ai posti dove devi andare. Ma per averlo bisogna organizzarsi collettivamente, no? Se non c'è questa organizzazione collettiva, a ciascuno tocca prendere la propria automobile, chi non ce l'ha sta a piedi oppure viaggia sui mezzi pubblici di linea, se ci sono e quando ci sono. Allora, questa cosa qua è molto importante, no? Si dice in economia politica classica, quella ideologia liberista che difende il mercato, difende la proprietà privata, difende la cosiddetta liberalizzazione o libertà di impresa, eccetera, che il consumatore è sovrano, cioè il consumatore comanda, perché se non compra più una particolare merce, l'azienda che lo produce fallisce, no? E quindi è il consumatore alla fine che decide, l'insieme dei consumatori che decidono che cosa si deve produrre, chi lo deve produrre e chi no, perché compra soltanto le cose che gli piacciono. In realtà sappiamo che non è così, noi compriamo soltanto le cose che troviamo, no? Possiamo scegliere fra alternative che sono molto ridotte. Allora, il consumatore diventa sovrano, nel senso che può comandare, contare, no? Se è un consumatore collettivo, se è un consumatore organizzato, no? Cioè che per esempio fa i gas, che per esempio si organizza per fare il car sharing, che per esempio si organizza per fare il carpooling, a un livello di organizzazione maggiore, per cui ci vuole ovviamente l'appoggio delle amministrazioni locali, dei comuni, dei cantoni, eccetera, col trasporto a domanda e così via. E quindi la prima parte, cioè ci vuole per cambiare, per avere una conversione ecologica, per far fronte alle minacce che incombono sul pianeta, no? Di esaurimento delle risorse, di stravolgimento del clima, perché si esaurisce una risorsa fondamentale che è l'atmosfera, cioè nel senso che viene tutta quanta inquinata dai gas di serra, no? Occorre innanzitutto un cambiamento individuale, che è sì una scelta personale, soggettiva, no? Di condurre una vita più sobria e di non sottostare alle sirene del consumismo, ma che per andare fino in fondo richiede un'organizzazione che permetta di organizzare i consumi collettivi. Ma l'altro aspetto fondamentale è che ovviamente questa scelta non può essere fatta se dall'altra parte non c'è un cambiamento strutturale della produzione, dei sistemi di produzione, delle aziende che producono, delle aziende che distribuiscono e commercializzano i prodotti. E questo cambiamento riguarda in particolare alcuni settori che oggi sono al centro dell'attenzione, perché sono quelli che consumano più energia o più risorse e quindi spingono il pianeta, la collettività, l'umanità, eccetera, sempre più velocemente verso un disastro irreversibile, e contemporaneamente perché sono quelli su cui, e lo vedremo alla fine della questa mia presentazione, su cui è oggi già possibile, perché ci sono le conoscenze, ci sono gli strumenti e ci sono delle esperienze pratiche in atto, è già possibile cercare di promuovere delle alternative. Faccio un esempio molto semplice che per voi sarà per spiegare la connessione fra soggettivo e oggettivo, no? Per voi sarà pane quotidiano, perché in Svizzera le cose funzionano un po' meglio che in Italia, ma la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cioè di quelli che noi produciamo, no? Ha bisogno di un atteggiamento e un impegno soggettivo, cioè se noi non conferiamo separatamente i diversi materiali da raccogliere in maniera differenziata, la raccolta differenziata non si può fare, e quindi bisogna che ciascuno di noi personalmente si impegni. Non è una grande cosa, ma insomma in Italia è ancora una cosa che pochi fanno, non sempre, anzi quasi mai per colpa loro, perché se anche io raccolgo in maniera, conferisco in maniera differenziata i miei rifiuti, ma non c'è un'azienda e un'amministrazione pubblica che me li viene a raccogliere, non serve assolutamente a niente, finiscono di nuovo tutti quanti in discarica. Però se l'azienda fa soltanto questo e io non conferisco separatamente, anche l'azienda con tutta la sua buona volontà non riesce a... Quindi soggettivo è il mio comportamento personale, che è indispensabile, ma oggettivo è il fatto che c'è una struttura, c'è un'azienda in grado di fare questa cosa, oppure vale per tutti quanti gli ambiti di cui adesso vi parlo. Quali sono gli ambiti di una possibile conversione ecologica? Io li elenco brevemente, poi ve ne parlo soltanto di uno, ma per spiegarvi che succede così dappertutto. Energia. Bisogna passare di un tempo molto rapido, bisogna che tutta l'umanità, tutto il pianeta passi un tempo sempre più rapido. Prima si diceva 50 anni, ma ormai 10 ce li siamo mangiati, sono più solo 40 anni, lo si è detto e anche ripetuto a Copenaghen, però poi non si è deciso niente, da un'economia fondata sul consumo dei combustibili fossili a un'economia fondata sulle fonti rinnovabili. Perché se no il pianeta va a rotoli, cioè i cambiamenti climatici saranno tali per colpa dell'effetto, per via dell'effetto serra, tanti e talmente drammatici da rendere la vita impossibile per una parte maggioritaria della popolazione mondiale. Allora, questi innanzitutto, poi torniamo, quali sono le fonti rinnovabili, lo sapete benissimo, il sole, solare termico, cioè per l'acqua calda sanitaria, solare termodinamico, sono quelli lì che usano i raggi del sole per scaldare dei fluidi che poi alimentano delle turbine. Il vento, l'eolico, grande e piccolo, il mini eolico installabile in ogni casa esposta al vento, ma sì, eolico sono queste grandissime parti che anche voi in parte conoscete. La biomasse, cioè anche qua, no? I biocarburanti, cioè che distruggono intere o convertono intere zone, l'opposto della conversione ambientale, la conversione antiambientale, convertono territori prima destinati alla foresta, occupati dalla foresta, oppure destinati alla produzione di derrate alimentari, no? A produrre biodiesel o biocarburanti, cioè alimenti per le automobili, no? Nella crisi del 2008-2009 uno dei drammi maggiori è stato l'aumento a livello mondiale del prezzo dei cereali e delle principali derrate alimentari, tra le cui cause, la causa principale è stata la conversione di molti terreni a produzioni di biocarburanti sottratti dalla distinzione di produzioni alimentari. La cosa importante da capire, poi c'è sono le maree, poi c'è il geotermico, poi c'è le cadute d'acqua e quindi l'idraulico, eccetera. Queste sono le fonti rinnovabili. Tutte già nel geotermico dipendono poi in ultima analisi dal sole, perché sono il vento è una conversione la forza del vento è una conversione dell'energia solare. Tranne il geotermico, tutte dipendono dal sole. Nessuna di queste, né tutte quante insieme, riusciranno mai a sostituire interamente i combustibili fossili nell'uso che noi oggi ne facciamo. No? Faccio l'esempio più semplice, poi ci tornerò sopra, l'automobile. Oggi nel mondo ci sono 800 milioni di automobili, grosso modo, cioè le statistiche sono incerte perché in molti paesi non c'è un registro dell'automobile puntuale come quelli svizzeri, precise come quelli svizzeri, ma siamo lì. Siccome la nuova frontiera in Europa c'è una sovracapacità produttiva, per quindi l'automobile è stata uno dei settori più colpiti dalla crisi e uno di quelli più aiutati, e cioè che ha sfruttato di più gli aiuti di Stato, ma per aumentare la produzione di automobili le nuove frontiere sono i paesi emergenti, cioè la Cina, il Brasile, la Russia, l'India e poi a seguire l'Indonesia e così via. L'industria automobilistica prevede nel giro dei prossimi 10 anni, quindi 10-12 anni, di raddoppiare il parco automobilistico mondiale, 1.600.000 automobili. Non ci stanno, no, sul pianeta, proprio fisicamente, un'automobile ha bisogno di 10 metri quadrati per posteggiare, almeno di 30 per muoversi, andare avanti a 30 all'ora e di 150-200 metri quadrati per poter correre a 80-100 km all'ora. Non c'è su tutta la Terra uno spazio sufficiente a contenere queste automobili. Poi non ci sarà petrolio sufficiente per alimentarle, l'automobile elettrica è un sogno irrealizzabile e poi vi spiegherò perché, ma soprattutto se andiamo avanti a petrolio mancherà il petrolio e le emissioni di queste automobili potrebbero contribuire molto a compromettere il piano. Allora, si potrà continuare ad andare in automobile purché l'automobile sia condivisa o col car sharing o col carpooling o con il trasporto a domanda, eccetera. Cioè, che mentre oggi ci viaggia una persona per ogni automobile, si dice negli Stati Uniti spostare una tonnellata di ferraglie per muovere 80 kg o 100 libbre di ciccia, nel trasporto condiviso la capacità di trasporto dell'automobile viene sfruttata a pieno o quasi, perché viaggiano 5-6 persone, 4, ma non di meno, con percorsi compatibili, nel senso che magari non vanno tutti nello stesso posto, alla stessa ora, ma insomma possono organizzarsi per farlo, o qualcuno li può organizzare. Ma non è possibile, ma questo è solo un esempio, cioè non è possibile usare le fonti rinnovabili con la stessa intensità energetica con cui oggi utilizziamo le fonti fossili, che vi ricordo sono il metano, il petrolio e il carbone. E quindi cosa vuol dire? Questa conversione è strettamente legata a processi di efficienza energetica, di consumare molta meno energia per avere lo stesso risultato. Cosa possibile? No? Cioè, qua ci sono delle lampadine ad alta efficienza, eccetera. Non sono ad altissima efficienza, sono meglio, mi pare, delle lampade che non sono a incandescenza, no? Sì, questa è a incandescenza. Allora, questa consuma un ventesimo di quella, parità di luminosità. Oggi le tecnologie permettono anche di usare i LED per ottenere lo stesso effetto che consumano un centesimo della lampadina incandescenza e un ventesimo delle, un decimo delle lampadine ad alta efficienza, eccetera. Ma su in questo campo qua ce ne sono ormai decine e decine di tecnologie praticabili che permettono di consumare molto meno avendo lo stesso effetto. In particolare per quello che riguarda il riscaldamento, ho visto che voi vi siete ingegnati in una maniera straordinaria anche dal punto di vista estetico nel costruire le stufe, anche perché siete un pochino accampati e sempre su chi va là precari in questa situazione qua, però dove le case vengono costruite ad hoc o ristrutturate ad hoc e c'è la sicurezza di poter sfruttare poi l'investimento che si fa anche per la coibentazione delle pareti, dei tetti, dei soffitti e l'uso del riscaldamento, è possibile consumare un decimo anche dell'energia che viene consumata oggi, e addirittura esistono anche in paesi freddi ormai delle case che non richiedono assolutamente case da riscaldamento passivo, che non richiedono assolutamente l'apporto di fonti energetiche per mantenere le temperature. Va bene, questa è l'energia, poi ne parliamo. La seconda è la mobilità, e ne ho già parlato, cioè non si può pensare che nei prossimi 50 anni, se non vogliamo andare intorno alla catastrofe, noi possiamo continuare a muoverci tutti quanti con una macchina a testa, e non mi dilungo oltre su questa cosa qua. Il terzo è l'agricoltura. Oggi l'agricoltura va a petrolio, completamente, perché il petrolio si usa per la motorizzazione, cioè per i trattori, si usa per i fertilizzanti, si usa per i pesticidi, si usa per la raccolta, si usa per la refrigerazione, si utilizza per l'imballaggio, ma si utilizza soprattutto per il trasporto, perché oggi molte delle derrate alimentari che noi mangiamo, da cui traiamo il cibo che noi mangiamo, provengono dal lato opposto del mondo, anche perché ci siamo abituati a mangiare per esempio frutti fuori stagione, cioè mangiare l'uva d'inverno e i cachi d'estate, e quindi questo ha dei consumi di trasporto, dei costi di trasporto in termini ambientali altissimi. Si calcola che per ogni caloria di cibo che noi mangiamo complessivamente ne siano state consumate 10, no, prodotte da combustibili fossili. Anche questo non è più sostenibile, perché l'agricoltura contribuisce a oltre il 20%, così come è oggi organizzata a livello mondiale, e con l'aumento della popolazione e dell'accesso a una nutrizione decente, se ci sarà, di una serie di popoli che oggi vivono, fanno la fame. No, il fabbisogno di prodotti agricoli e alimentari aumenterà, e quindi aumenteranno anche le emissioni prodotte dall'agricoltura se non si cambia il tipo di produzione. Quindi l'obiettivo maggiore è agricoltura chilometri zero e poi agricoltura biologica o comunque integrata, che utilizzi meno, progressivamente meno combustibili fossili, sempre di più. Il terzo settore su cui è assolutamente importante intervenire, agricoltura e alimentazione, non vi ho detto, no, il quarto settore è l'urbanistica, cioè la città è fatta così come si è espansa nel corso degli ultimi 100 anni, è fatta per consumare energia, a più non posso, perché noi per andare da un posto all'altro la città è sempre più dispersa, è sempre meno raggiungibile con trasporto pubblico, ma soprattutto poi le case, le edilizie, eccetera, si sono strutturate sempre di più in maniera da consumare illimitatamente non solo energia ma anche acqua e altre risorse, suolo soprattutto, no? Oggi in Italia per fortuna è cominciata una grande campagna, credo che in Svizzera sia già molto di più nella testa della gente, di non continuare a costruire consumando nuovo suolo, perché questo non solo sottrae suolo all'agricoltura ma anche alla diversità biologica, al ricambio organico della natura, eccetera, ma soprattutto contribuisce ad aumentare gli inconvenienti dell'ambiente. Il terzo è il dissesto idrogeologico, il quinto settore è il dissesto idrogeologico, che problema qua in Svizzera meno sentito ma non assente, ma che in Italia è drammatico e l'avete sentito, cioè vuol dire costruire le case antisismiche o metterle in sicurezza, prevenire le frane e fare in modo che ci sia il rimboschimento per impedire il deterioramento dei suoli e così via. Va bene, allora le caratteristiche di tutti questi settori, cioè il lato oggettivo della conversione ecologica, è sostanzialmente quella di essere altamente differenziati in base alle caratteristiche del territorio, altamente decentrati e non centralizzati, altamente distribuiti, cioè fondati su un rapporto di reciprocità e di cooperazione fra le persone, altamente labor intensive, cioè che richiedono alti livelli di occupazione, a tutti i livelli, non soltanto manuale ma anche intellettuale, anche con livelli di specializzazione molto alti, e esattamente il contrario di quello che succede oggi. Allora, vi ho detto, faccio un esempio per tutti, perché sugli altri settori, poi se qualcuno di voi avrà la voglia di leggere il libro che ho scritto, si parla di tutti quanti, ma io vi parlo esclusivamente del sistema energetico. No, quale differenza passa fra i combustibili fossili e le fonti rinnovabili? I combustibili fossili sono altamente centralizzati, grandi campi di pozzi petroliferi o di pozzi metaniferi o grandi miniere di carbone, grandi sistemi di trasporto, oleodotti, gasdotti, navi petroliere, navi carboniere, grandi impianti di trasformazione, grandi raffinerie, no? Grandi impianti siderurgici che usano quantità gigantesche di carbone, eccetera, grandi reti di distribuzione, perché poi la benzina deve arrivare dappertutto. Qual è la conseguenza di questo? Innanzitutto che a controllare, a gestire e a organizzare queste reti, eccetera, devono essere grandi società di capitale, cioè grandi multinazionali. Più sono grandi, più sono potenti, più riescono a controllare queste cose. L'altra conseguenza è che siccome questi fonti energetiche sono concentrati in certi punti, dove ci sono i pozzi petroliferi, dove ci sono i pozzi metaniferi, dove ci sono le miniere di carbone, no? C'è un evidente interesse delle imprese, dei grandi gruppi e poi evidentemente degli stati che li appoggiano ad accaparrarsi queste risorse. E se noi guardiamo tutte le guerre del XX secolo, cioè del secolo scorso, e anche quelle di quest'anno, a partire di questo secolo, a partire da quella del 15-18, sono state scatenate essenzialmente per accaparrarsi le fonti energetiche, no? A partire dai pozzi di Baku, dai pozzi del Medio Oriente, la prima guerra mondiale, la distruzione dell'impero ottomano, no? Perché là c'era il primo petrolio che era stato scoperto in Iraq e in Iran, no? Poi la seconda guerra mondiale, l'obiettivo di Hitler, perché ha invaso l'Unione Sovietica e si è cacciato in questo cul-de-sac che ha portato alla sua sconfitta, stava puntando sui pozzi petroliferi di Baku del Mar Caspio. No, la guerra del Golfo, siete sufficientemente vissuti per ricordarvi qualcosa, comunque la guerra in Iraq e in Afghanistan uguale. E poi tutti una serie, il conflitto arabo-israeliano ha la stessa origine e così. Qual è la caratteristica invece delle fonti rinnovabili? No, prendiamo il sole, no? Il sole deve essere catturato tetto per tetto, azienda per azienda, posto per posto, dove c'è, no? E quando c'è. E quindi gli impianti ottimali, no? Sono quelli più possibile decentrati e distribuiti. Secondo, il sole non c'è sempre, neanche il vento, per il vento è lo stesso, si può sfruttare soltanto dove c'è. Lo stesso per le biomasse. Ora in Italia ci sono alcune centrali elettriche, di generazione elettrica, che utilizzano l'olio di palma che proviene dall'Indonesia o dalle Filippine. È un'autentica pazzia, perché il consumo di carburante delle navi che trasportano questo materiale dagli antipodi è tale da annullare qualsiasi vantaggio ambientale che si può ricavare dal usare una fonte rinnovabile invece che non rinnovabile. Perché lo fanno? Perché in Italia ci sono degli incentivi altissimi per chi usa le fonti verdi, ma in questa maniera qua è completamente sbagliato. Le biomasse, cioè il frutto della manutenzione dei boschi e i residui agricoli che non vengono trasformati in cibo, eccetera, vanno utilizzate in un raggio di non più di 40 km, quindi in centrali, anche termoelettriche, molto piccole e molto distribuite sul territorio. La geotermia è lo stesso, insomma, no? Cioè bisogna scavare dei pozzi più o meno profondi a seconda della situazione, eccetera, ma in cui ciascuno utilizza quel poco di calore che riesce a ricavare dalla terra. Secondo, no? Il sole è intermittente, cioè c'è di giorno e non c'è di notte, poi in alcune giornate ce n'è di più, in alcune giornate ce n'è di meno. Anche il vento è una fonte intermittente, a volte c'è, a volte non c'è, oppure non c'è in misura sufficiente a muovere le pale, eccetera. Queste fonti devono essere fra loro collegate e integrate in uno scambio reciproco. Quando hanno energia in eccesso la possono cedere agli altri, quando manca l'energia la devono risucchiare dalla rete. Ma non ha senso con fonti di questo genere qua trasportarla a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Bisogna, grosso modo, che questa compensazione reciproca fra le diverse fonti avvenga nel territorio più ristretto possibile. Terzo, ovviamente ogni fonte di generazione energetica deve essere il più possibile commisurata ai carichi energetici, no? Cioè se io mi metto dei pannelli solari termici per fare l'acqua calda in casa mia, me ne metterò tanti metri quadrati, cioè due o al massimo tre, quanti mi servono per fare l'acqua calda che io consumo tutti i giorni per fare la doccia, anche perché l'acqua calda non si può trasportare molto lontano. Se io faccio dei pannelli solari fotovoltaici, no? In genere anche la stessa legge che incentiva queste cose qua in Italia lo dice, deve essere proporzionata ai tuoi consumi. Poi ovviamente ci sono dei momenti in cui non consumi niente e la cedi alla rete, i momenti in cui consumi di più e non la cedi alla rete, ma grosso modo, no, quello che serve per il consumo di una famiglia sono 3 kW di potenza per ogni famiglia, quindi l'equivalente di una trentina di metri quadrati allo stato delle tecnologie attuali. E lo stesso vale per tutte le altre fonti. No, quindi devono essere commisurate ai carichi energetici locali. Ultimo, no, sono cose che, essendo molto differenti, non c'è una sola fonte che sostituisce il petrolio o il carbone. Io devo in ogni territorio e addirittura in ogni casa o in ogni edificio, in ogni struttura, no, fare un mix di diverse fonti energetiche per rispondere il più possibile alle esigenze specifiche di chi le consuma in loco. E quindi questo richiede un'attenzione molto precisa per le caratteristiche del territorio, non soltanto se c'è vento, c'è sole, ci sono cadute d'acqua o c'è biomassa da utilizzare nelle vicinanze, ma soprattutto che cosa si consuma lì, quali sono le esigenze fondamentali a cui risponde. Poi tutto deve essere fatto in regime di efficienza energetica, quindi bisogna coibentare le case e le case nuove si possono fare con progetti unitari, eccetera, ma poi ci sono tutti gli edifici vecchi, ciascuno dei quali richiede interventi specifici. Che cosa voglio dire con questo? No, che per passare alle energie rinnovabili non sono più adatte le grandi società multinazionali, le corporation che controllano il mercato mondiale dell'energia, ma ci vogliono invece imprese, conoscenze e attività specifiche legate al territorio, e chi conosce meglio il territorio coloro che ci vivono dentro, no? E quindi ogni territorio ci sono sicuramente già oggi diffuse, perché ciascuno ha delle competenze tecniche, scientifiche, ciascuno di noi, chi di più, chi di meno, chi un campo, chi nell'altro, per cominciare a mettere a disposizione di una riconversione energetica di questo genere. Ma soprattutto, no, per sapere quali sono le esigenze di ogni specifico nucleo abitativo e quali sono le risorse che si possono sfruttare, sole, vento, biomassa, geotermico, cadute d'acqua, eccetera, bisogna conoscere il territorio, viverci lì e adattarsi e poi mettersi d'accordo su qual è la soluzione migliore. E questo è il secondo punto. Quindi questo vale per la mobilità, vale per l'agricoltura e lo potete capire da soli, no? Cioè se l'agricoltura deve essere a chilometri zero bisogna capire chi sono i consumatori, quali sono le aziende che possono soddisfare le loro esigenze, come instaurare dei rapporti più stretti possibili fra queste, garantendo la più ampia varietà di alimentazione possibile e immaginabile, insomma, nei limiti della sostenibilità. E anche lì ci vogliono competenze specifiche. Ultima cosa, cosa ci vuole per attuare questa conversione? No, indubbiamente ci vogliono risorse. Grazie. Denaro, eccetera, però ci vogliono, come abbiamo detto, conoscenze sia del territorio e sia conoscenze specifiche, poi ci vogliono imprese, no, ultima cosa che volevo dire, che l'ho già detta, tutte queste attività richiedono molta manodopera, no? Per l'installazione, per la manutenzione, poi soprattutto per lo studio, perché ogni volta si tratta di adottare le situazioni diverse, quindi non le posso fare in serie, no? Posso produrre in serie i pannelli solari o le eliche, ma poi per andarla a installare e capire che cosa ci vuole qui piuttosto che lì, e soprattutto per fare l'efficienza energetica, per coibentare gli edifici, per ridurre il consumo, no, ogni edificio e ogni famiglia e ogni nucleo abitativo ha delle esigenze differenti. E quindi questo richiede molta manodopera specializzata, con competenze che vanno dal livello più basso di installatori manuali al livello più alto, no, di certificatori energetici, di progettisti, eccetera, con delle competenze specifiche. Allora, primo, ci vogliono le conoscenze di chi conosce il territorio, quindi di chi ci vive. Secondo, ci vogliono delle imprese, perché senza imprese non ci sono, possono essere imprese private, imprese pubbliche, imprese cooperative, cooperative sociali, associazioni, eccetera, ma organizzazioni in grado di fare questo e soprattutto di garantire la manutenzione di questi impianti, perché questa è la cosa principale. Cioè in Italia molti ostacoli che trovano i consumatori individuali, no? Per esempio chi vuole installare sul proprio tetto un pannello fotovoltaico, è proprio questo, dice vabbè, io adesso chiamo una ditta che me lo installa, poi c'è qua in loco una ditta che se si rompe me la viene a aggiustare, lo devo far venire da 300 km di distanza, e molti non lo fanno perché hanno il rischio di... Ci devono essere sul territorio delle imprese piccole, possibilmente legate al territorio eccetera, in grado di garantire l'installazione e la manutenzione di questi impianti, ma anche di continuare a seguire il progresso, perché fra un pochino i pannelli fotovoltaici cambieranno, saranno molto più economici, molto più efficienti eccetera, e bisogna, no, che a un certo punto qualcuno mi venga o a integrare il mio impianto oppure a sostituirlo, perché dice non ti conviene più lavorare con questi mezzi che non sono efficienti, così. Cioè bisogna garantire la continuità. Terzo, ci vogliono le amministrazioni locali, cioè senza l'appoggio dei comuni, delle amministrazioni locali è difficile mettere insieme un progetto, anche perché in genere se ci sono delle possibilità di accesso ai finanziamenti, no, in genere questi passano sempre attraverso l'avallo delle amministrazioni locali. Adesso io non so come sia la legislazione in Svizzera, ma in Italia, dove è fortemente incentivato per quest'anno fino al 31 dicembre, dove è stato negli anni scorsi, l'installazione di questi impianti, e dove finora se ne sono avvantaggiati soltanto delle grandi multinazionali che hanno fatto dei chilometri o degli ettari di pannelli solari, eccetera, e se sono meno del 10% dei pannelli che sono stati installati da singoli utenti, proprio per le difficoltà che vi ho esposto. Come si fa a superare questo? Bisogna che ci si metta di mezzo l'amministrazione locale a fare due cose. Primo, a installarli sui propri edifici, no? Sfruttando gli incentivi che ci sono, perché questo ha un valore di esempio e di volano anche, no? Se deve nascere un'impresa che fa questo mestiere qua, il fatto che un'amministrazione gli ordini 10 installazioni, 10 impianti eccetera, può costituire una base per l'avvio. Poi si vede che queste cose qua convengono, funzionano eccetera, e anche gli altri si metteranno a seguire. Ma secondo, le amministrazioni locali possono avere un grosso ruolo, insieme all'iniziativa ovviamente del basso, nel promuovere l'associazione dei cittadini per farlo. E guardate che questo non vale soltanto per i pannelli solari o per l'energia, vale per il trasporto, vale elementarmente per i telefoni, no? Cioè l'amministrazione locale potrebbe fare il contratto con i provider dei nostri telefonini e spuntare dei canoni che sono la metà di quello che ciascuno può spuntare individualmente. Non ci vuole niente, sono processi a costo zero, basta che vengano convinti della necessità e dell'urgenza di fare questa cosa. E quindi come si fa a promuovere una cosa di questo genere? Difficilissimo, no? Però la situazione di crisi, che prima o dopo, e credo che abbia già cominciato a mordere, investirà anche la Svizzera, no? Rende non solo i cittadini più nella necessità, me li mette nella necessità di cercare di correre ai ripari, cioè di adottare le situazioni, le soluzioni che costino meno, ma anche molte imprese, no? Che a produrre le cose che hanno prodotto fino adesso, nel modo in cui le hanno prodotte fino adesso, si trovano sempre più in difficoltà perché il potere d'acquisto della gente sta diminuendo e perché anche ci sono degli orientamenti diversi. E quindi in situazioni di crisi anche molte imprese, in genere quelle più piccole, non quelle più grandi, eccetera, hanno delle convenienze effettive a convertirsi a delle produzioni diverse da quelle che hanno fatto fino adesso, soprattutto se trovano l'appoggio da parte dell'amministrazione locale. Guardate, noi abbiamo un esempio molto brillante in Italia, e ho finito, ma ce ne sono molti, ma insomma quello che io cito sempre perché è il più facile, è l'Electrolux di Scandicci in provincia di Firenze. Electrolux è una multinazionale, è un impianto di produzione di elettrodomestici, ha deciso di dismetterlo e mettere sul lastrico gli operai. Gli operai hanno occupato la fabbrica, sono stati appoggiati dai sindacati e anche dall'amministrazione locale del comune di Scandicci. Che cosa ha fatto? Grazie al fatto che in Italia ci sono gli incentivi, sono andati a convincere una serie di comuni a installare, sfruttando questi incentivi, i pannelli solari sui propri edifici e garantendo così a un'eventuale conversione della fabbrica alla produzione di pannelli solari un mercato per i prossimi 2 o 3 anni. A questo punto gli operai erano favorevoli, no? Anche a riconvertirsi e adottare una nuova produzione. A questo punto, e solo a questo punto, sono arrivati anche gli imprenditori a prendersi il cosiddetto rischio. Ha detto, se ci sono i soldi, se ci sono gli operai disposti a convertirsi, a affrontare un processo di formazione per fare nuove produzioni, se c'è il mercato garantito per almeno 2 o 3 anni con la prospettiva di fare da volano a una sua espansione, va bene, noi ci prendiamo il cosiddetto rischio. E se il rischio era ovviamente ridotto, molto ridotto. Allora, la crisi crea delle condizioni favorevoli a mettere insieme questi 3 soggetti indispensabili. La popolazione, ovviamente, attraverso le sue organizzazioni, se ce le ha, le sue associazioni, le amministrazioni locali e alcune imprese disposte a tentare l'avventura. Ovviamente è molto difficile mettere insieme questi 3 soggetti che si guardano come il diavolo e l'acqua santa. No, ma la situazione di crisi può mettere delle condizioni di cominciare a confrontarsi su questi temi. E guardate, i primi temi su cui ci si confronta, e ho finito, sono l'acqua, la gestione pubblica dell'acqua. In Italia è in corso una grande campagna per referendaria, per promuovere un referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Cioè, per portare tutti quelli che sono interessati a questa materia, che possono anche essere i gestori attuali dell'acqua privati, ma sono senza dubbio le amministrazioni locali, e la cosa funziona solo dove ci sono anche delle forti associazioni locali, no? A reinventare e mettere in piedi un sistema di gestione dell'acqua basato su un controllo dal basso, no? Sono le energie rinnovabili in alcuni campi, sono i rifiuti, no? Io ho questa esperienza fallimentare in campagna, no? Dove ho coordinato per un anno di seguito un forum, cioè un consesso di dove c'erano tutti gli tutte le associazioni imprenditoriali, la Confindustria, il Confartigianato, eccetera, Confagricoltura, la Coldiretti, eccetera. Poi quasi tutti, una buona metà dei comuni della campagna, quelli piccoli, ovviamente quello di Napoli non c'era o era latitante, no? E poi molti comitati e associazioni, sia le associazioni ambientaliste, sia comitati civici e comitati di lotta, no? Per esempio, voi sapete, la discarica di Chiaiano, dove per un anno si sono fatte le barricate contro la sua costituzione, questi erano comitati no, di giovani e meno giovani, eccetera, che facevano tutti i giorni le barricate. Bene, nella situazione di crisi drammatica come quella campana, in cui a smenarci erano anche gli agricoltori, erano anche le imprese, soprattutto perché questo sistema di gestione rovinava il turismo, rovinava la produzione locale, eccetera, no? Per un anno siamo riusciti a tenere insieme tre soggetti, no? Dai comitati che facevano le barricate alla Confindustria, che ovviamente persegue gli interessi degli imprenditori. Però rispetto al modo in cui il governo stava gestendo la partita dei rifiuti, per un anno siamo riusciti a tenere in piedi la cosa. Poi non l'abbiamo tenuta più per una serie di circostanze, anche perché la cosa era molto difficile. Ma questo esclusivamente per spiegarvi che la situazione di crisi, che è destinata a prolungarsi e ad aggravare le condizioni di tutti, dei lavoratori innanzitutto, dei disoccupati più ancora che dei lavoratori, ma anche delle imprese, e mettere alle corde anche molte amministrazioni locali che non hanno più le risorse su cui potevano contare in passato, crea delle condizioni più favorevoli, no, a mettere insieme e a elaborare dei piani di intervento che mettano in campo, cioè, la conversione ecologica anche dal punto di vista oggettivo, cioè di intervenire in questi ambiti che vi ho detto per cominciare a creare le cose diverse. Il farmer market, per esempio, un'altra cosa in cui le amministrazioni possono avere un grosso ruolo, cioè di offrire degli spazi, delle facilitazioni, eccetera, perché gli agricoltori dei dintorni possono venire a vendere direttamente la loro produzione senza passare attraverso la mediazione sia dell'industria agroalimentare sia dei mediatori commerciali. Non so come sia la situazione qua in Svizzera, ma in Italia questo è un problema molto sentito e ha avuto dei grandi risultati. Con questo io mi fermerei e spero, insomma, vi ringrazio di avermi seguito con attenzione, eccetera, e se ci sono delle domande, delle obiezioni o delle persone che vogliono intervenire, la cosa è graditissima. Ecco, io non so se ho parlato a forte sufficienza per essere sentito da tutti, dovresti cercare di alzare un pochino la voce anche tu. Però ho sentito parlare di non sostenibilità, sì. Quando parlavi dell'agricoltura, tutto ciò che è legato all'agricoltura, anche l'utilizzo del petrolio, cioè quello che noi facciamo, prendiamo dal profondo della terra, dalle viscere, e facciamo una vangatura un po' così. Allora, questa, quello che mi chiede è no, non è che finisce tutto d'un colpo. No, non finisce d'un colpo. Ecco, anche alcuni di voi avranno sentito parlare del picco del petrolio, no? Per alcuni è già stato superato, per altri sarà l'anno prossimo, per altri si sposta al 2020, ma comunque arriva e siamo non è che dopo aver raggiunto il picco del petrolio non c'è più petrolio, ce ne sarà sempre meno. Lo stesso è per la terra, cioè, come sai, i concimi sintetici riducono la fertilità della terra. Sì, e concretamente c'è un tempo in cui dobbiamo dire basta, cioè quanto possiamo andare. Io vedo, continuo a vedere costruire, per parlare di costruzioni, le costruzioni vanno avanti nel nostro piccolo territorio, c'è una continua cementificazione, una speculazione proprio, no, di queste nostre risorse, tutto ciò legato al denaro. A volte mi chiamano, cos'è sto denaro? C'è una cosa che abbiamo inventato noi che vale di più il denaro rispetto a un pezzo di terra che ti può andare a mangiare. Questa follia fino a quando dove ci condurrà? Poi sono fiducioso di dire che se ci saranno energie alternative, la possibilità di avvicinarci di quelle energie alternative, da consumare meno, però insomma, la siamo tanti. spreco dell'olio e delle risorse che non si possono rinforzare. Era un riscontro anche burocratico. Prima si diceva, certo, burocraticamente, quando ti scontri, quando vai in una mensa scolastica e trovi il virus e getta, ma quando comunque vai a festeggiare, poi vai anche magari in situazioni, diciamo, antagoniste, queste in realtà antagoniste, e vai a far festa piuttosto che a fare un benefit, no? Qualcosa di bene, però è cosa a discapito sempre dell'ambiente, perché la musa getta è presente ovunque. Magari per spostarci, a volte ci spostiamo da soli perché non ci si riesce a venire. C'è molto, è vero che il problema c'è, è reale. Cosa voglio sapere fino a quando il petrolio fino a quando ci potrà supportare questo, perché di scorte ce ne sono, forse noi non lo vedremo nella nostra vita. No, purtroppo lo vedremo, cioè, ovviamente lì ci sono pareri differenti, ma sulla fine del petrolio la maggior parte degli esperti indipendenti, cioè quelli che non dipendono dalle compagnie petrolifere, stanno urlando con quanto fiato hanno in gola, eccetera. Se volete andate a vedere il sito ASPO su internet, dove parlano praticamente tutti gli esperti di petrolio indipendenti che non dipendono dalle compagnie, e vi dicono che guardate che siamo alla frutta, no? Non è appunto che non ce ne sarà più, ma rispetto alla domanda, al fabbisogno, eccetera, ce ne sarà sempre meno, e ce ne accorgeremo ben presto, cioè, e non sarà una diminuzione graduale, sì, perché poi ci sono le guerre, ci sono le crisi, le rotture. Pensate cosa succede se la Svizzera da un giorno all'altro, per una guerra in Medio Oriente o per un conflitto anche semplicemente diplomatico, eccetera, non ricevesse più i suoi approvvigionamenti di petrolio. Le vostre automobili si fermano. Chi si muove più? No, il riscaldamento non c'è più. Non ci sono soluzioni. Voi sì, c'è la stufa a legna, ma la maggior parte non ce l'hanno. L'illuminazione elettrica diventa un problema, eccetera. Allora, come probabilmente le cose non saranno improvvise ma graduali, anche la fertilità del suolo cessa prima da una parte e più tardi dall'altra, e poi ci saranno sempre dei marchingegni per continuare a tirare fuori qualcosa anche dai suoli più compromessi, eccetera. Però complessivamente le derrate alimentari rischiano di diventare insufficienti per alimentare tutta la popolazione mondiale, soprattutto se la maggior parte dei campi vengono utilizzati per produrre benzina e biodiesel. Cioè, quello che volevo dire io, che è vero, se ne parla tanto, se ne parla sempre di più, questo è anche positivo. No, allora anche il passaggio a queste nuove soluzioni non sarà improvviso e istantaneo, sarà graduale. E non ci sarà, cioè, la rivoluzione nelle nostre teste e nel nostro cultura, ma non ci sarà la rivoluzione in campo energetico per cui a un certo punto si cambia, no? Sarà il frutto della lenta e graduale costruzione di soluzioni alternative, ma pratiche, non semplicemente pensate, da parte di chi è riuscito a muoversi per primo. Ci sono alcuni che sono più avanti, altri che sono più indietro. Azioni collettive si possa veramente arrivare a qualcosa. Lei prima parlava di energie rinnovabili, decentralizzate, confronto l'energia del petrolio, però la ricerca dietro le energie rinnovabili sarà comunque sempre centralizzata, e oramai comunque da 40 anni che i centri di ricerca diventano importanti economicamente, sono finanziati dalle stesse aziende che poi finanziano anche chi costruisce altre cose. In Svizzera questo è abbastanza palese con la rete del finanziamento, industrie che costruiscono, macchinari di specializzazione, eccetera. Quindi confrontati a questo, anche le energie rinnovabili torneranno, semmai si adatteranno a questo sistema. Bisogna produrre con energie rinnovabili, bisogna soprattutto produrre meno non è concepibile nella società attuale capitalista, e quindi fondamentalmente bisogna uscire dal capitalismo. Uscendo dal capitalismo non è così importante pensare che le auto siano sempre riempite, si può immaginare una società in cui in auto non bisogna spostarsi ogni giorno quanto ci spostiamo noi, non lo si può immaginare adesso, però è questo che ho sentito che mancava nel suo discorso stasera. Sì, ma anche perché, cioè, non è che io non voglio uscire dal capitalismo, anch'io ci tengo, però penso che queste enunciazioni così generali, poi io sono stato in gioventù anch'io un militante delle enunciazioni generali eccetera, abbiano poca possibilità di morte. Sono d'accordo che se si fanno tutte queste cose si esce anche dal capitalismo, però il problema è di cominciare a riunire delle forze, non semplicemente per fare dei discorsi, ma per provare a fare le cose, no? Perché c'è della gente già che lo sta facendo. No, nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione, in Italia nel corso degli ultimi 2 anni è avvenuta, sta avvenendo una piccola rivoluzione, graduale, capillare, articolata, eccetera. Però la gente che si approvvigiona direttamente organizzandosi sta crescendo moltissimo, i gas sono esplosi. E guardate che sono molto importanti, perché quando la gente si mette insieme magari per comprare gli alimenti, ma poi comincia a discutere di gestire insieme i figli con un maggiore scambio eccetera, di magari procurarsi degli impianti di energia alternativa, di adottare le soluzioni di risparmio energetico, di esercitare anche delle pressioni sul collettivo, cioè più forti, no? Sull'amministrazione o sul condominio, sul quartiere eccetera, per adottare delle situazioni differenti di trasporto eccetera. È chiaro che poi ci scontriamo sempre con delle enormi società che hanno un potere infinitamente maggiore di quello che può essere un piccolo potere, piccola forza decentrata che ciascuno è riuscito a costruire. Però guardate che il potere delle grandi corporation è fatto, costruito interamente sulla passività di chi lo subisce, cioè nella misura in cui ci sono degli esempi, delle iniziative di organizzazione dal basso, la capacità di queste organizzazioni qua di influire su di loro è molto minore. Certamente, cioè, il problema maggiore è indubbiamente l'occupazione, no? Queste hanno una possibilità di decentrare, spostare le loro attività da un continente all'altro e di piantarci in asso improvvisamente. Però anche su questo bisogna di passare a parte c'è una specie di gas che c'è all'interno, tantissimo questo, quello che poi mi trovo spesso infastidita è che si può fare tutte queste azioni importanti, basta che una prospettiva critica è sempre importante averla. Assolutamente. E spesso è quello che invece non si risente, al momento che non l'hai, secondo me hai perso, non è inutile quello che stai facendo collettivamente, se hai perso la prospettiva di critica, perché vuol dire che accetterai solo quello che il potere è disposto a darti comunque, e non riuscirai a risolvere. La stessa azione con la coscienza dietro cambia. Su questo sono d'accordo. Cioè, in generale, lo slogan principale degli ambientalisti, che agire localmente ma pensare globalmente, è fondamentale. Cioè, noi tutte le volte che riusciamo a organizzare una cosa piccola, come per esempio questo centro qua, no, che è molto bello, eccetera, ma in Lugano rappresenta una goccia d'acqua, eccetera. Però qual è la caratteristica? È che dietro c'è una prospettiva generale, che naturalmente è caratterizzata da una grandissima impotenza, perché 99% delle cose che vorremmo fare non abbiamo la possibilità di farle. Però quelle che facciamo, le facciamo con una prospettiva generale, no? E questo dà un'enorme forza, anche perché è una maniera per raccogliere idee, elaborarle, no? Mai niente l'ha fatto vedere come questa crisi. Quello che caratterizza invece i nostri avversari, no? È che non hanno più idee, cioè come stanno affrontando la crisi? Continuando a fare le stesse cose e riproducendo di anno in anno i guai in maniera sempre più grave. Ci andranno di mezzo anche loro. Cioè, adesso è vero, cioè nel disastro della Louisiana hanno fatto una cosa tremenda, eccetera, no? Però la società che lo ha fatto, no? Con non prendere precauzioni, ci va di mezzo anche lei, no? E questa cosa qua sarà sempre più evidente, no? Le imprese, i capitalisti della campagna che hanno avvallato e permesso per 20 anni di seguito che lì si sversassero i rifiuti, che si smaltissero nella maniera più becera possibile, che si rovinasse il territorio, che si rovinasse l'ambiente, adesso ne risentono anche loro tantissimo, perché è crollato il turismo, l'agricoltura è compromessa, la vita civile, quindi anche la possibilità di fare profitto su come la gente vive, come si organizza, come si diverte, eccetera. È molto deteriorata, eccetera. Al punto che molti di loro si sono accorti che era giunto il momento di cominciare a discutere con qualcun altro che la pensa in maniera radicalmente diversa da loro di che cosa fare. E guardate che lì, no, sul tema dei rifiuti, ma io credo in tutti i posti dove si può avviare un confronto di questo genere, che è difficilissimo, le idee ce le abbiamo noi, non loro. No, di come riorganizzare il ciclo dei rifiuti in campagna ce l'avevano i comitati, che avevano le idee molto chiare sulla riduzione della produzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata, sugli impianti, sul compostaggio domestico, con proposte anche concrete e anche con competenza, mentre dall'altra parte c'era semplicemente la consapevolezza di dire: così non possiamo più andare avanti, perché stiamo fallendo anche noi, no? Poi mettere insieme tutte queste cose qua ovviamente è difficilissimo. Prego. A me ha colpito particolarmente la questione delle competenze locali, della specializzazione, cioè della partecipazione dei locali tramite una specializzazione e acquisizione di competenze. In questa situazione di crisi che facilita la delegazione al locale, se non ho capito male, secondo la vostra esperienza in campagna o altri, quali sono le vie da privilegiare per sostenere questa ricaduta di competenze sulla popolazione locale? La partecipazione, per esempio, dei giovani a questa formazione? Non lo so, dipende dai temi che sono all'ordine del giorno, cioè in campagna e anche in altri posti sono all'ordine del giorno i rifiuti. Poi lì si vede che quando si fanno i comitati non sono fatti da persone qualunque. Dentro, no? Intanto ci sono dei chimici, no? Ci sono dei geologi, perché ci sono, no? Cioè sono persone che vivono e lavorano in quella zona lì, di ricercatori universitari, così, questo genere. Quando si fanno i comitati non è che si discuta astrattamente, cioè poi questi portano dentro le loro competenze. Lo stesso sull'energia, no? Cioè credo che sia pieno qua intorno di gente che lavora in imprese che hanno a che fare con l'energia e che queste cose qua le conosce. Il problema è che le possono mettere a disposizione soltanto in un ambito organizzato, no? Quando ci si riunisce su delle cose concrete. Per esempio sull'acqua, è capitato adesso, c'è in corso in Italia questa campagna sull'acqua pubblica, eccetera, dove ci sono i comitati dell'acqua. Poi si scopre che all'interno, no, ci sono gente che lavora per gli acquedotti, che lavora per le amministrazioni locali, no? Sono dei chimici che lavorano per le industrie che producono pompe, che producono impianti di depurazione, eccetera, no? E le competenze che loro magari usano quotidianamente nel lavoro al servizio di un'azienda che sta facendo delle schifezze, poi però le possono mettere anche a disposizione di una struttura organizzata di base, eccetera, per prospettare delle soluzioni assolutamente diverse, alternative, con competenze tecniche, dicendo proprio, secondo me, spiegando, bisogna fare così e così. In questa maniera qua si diffonde nella popolazione un sapere che poi è la forza su cui bisogna puntare. Allora, come si fa? Non lo so, no? Ma a partire dai punti su cui c'è una maggiore sensibilità, perché c'è maggiore conflitto, il fatto di riuscire a aggregare delle persone, bisogna poi riuscire a valorizzare questa aggregazione per utilizzare proprio tutte le competenze che ci sono dentro. No, non limitarsi ai discorsi generici, ma proprio fare in modo, no, che chi sa delle cose che possono essere utili alla collettività le tiri fuori, le valorizzi e magari le sviluppa e le specializza in modo da adattarle alle esigenze specifiche. Indubbiamente la competenza di un tecnico energetico che lavora per un'impresa privata di generazione o di distribuzione elettrica, no, per convertirsi, per essere utilizzata da un comitato, ha bisogno di delle elaborazioni ulteriori, e quindi che questa persona qua si trovi all'interno di una discussione che lo aiuti a capire che cosa deve studiare, che cosa deve ancora sapere, che cosa deve elaborare per mettersi a disposizione degli altri. Però guardate, io sono convinto che questa è la nostra forza potenziale, cioè il fatto dei saperi, sia che chi vive su un territorio lo conosce, e se domani si discute, no, di come devono essere fatti i nuovi impianti energetici o la mobilità, eccetera, è necessario sapere la mobilità, no? Fare dei servizi di trasporto a domanda, bisogna sapere, no, chi lo utilizza, che percorsi fa, che esigenze fa, a che cosa deve rispondere questo trasporto. Se non si consulta la popolazione attraverso dei processi democratici, non si riesce a progettare un sistema di trasporto alternativo. Se non si consulta la popolazione, magari poi anche in maniera conflittuale, perché uno dice tutti vorrebbero continuare ad avere tutta l'energia che hanno fino adesso, no? Ma se si tratta di operare delle restrizioni e delle scelte, eccetera, no, si comincia a discutere quali sono le priorità, no? I carichi energetici che non possono essere eliminati e quelli invece superflui che si possono ridurre o eliminare completamente, no? Quali sono le fonti energetiche che possono essere installate più facilmente e sfruttate più facilmente, in particolare edifici, in particolare territori, eccetera, e quale quelle di no. Se non si consulta la popolazione, nel senso che la popolazione si autoconsulta, queste cose qua non saltano fuori, nessuna azienda, organizzazione e anche amministrazione locale sarà mai in grado di metterle a punto in maniera adeguata. Guido, io ti ammiro perché queste qua sono, le parole che hai detto stasera sono semi di consapevolezza pratica di sopravvivenza, però siamo preoccupati perché comunque l'alternativa al petrolio così o anche alle energie rinnovabili la stanno mettendo sulla porta, sulle centrali nucleari, sia in Italia che in Svizzera, e nel mondo così cercano ancora di metterla sulla porta. E poi soprattutto su paesi emergenti come Cina e India, che sono in espansione, lì che ne sappiamo di quello che ci dicono voi europei, avete vissuto fino adesso, noi non possiamo fare altrettanto. Nel dire quello ci hanno perfettamente ragione, il problema è che il disastro ecologico che loro stanno realizzando sui loro territori è 100 volte superiore, cioè in pochissimi anni 100 volte superiore a quello che stiamo creando noi nei nostri, no? E quindi lì arriveranno a una resa dei conti, no? Cioè in Cina dicono già, cioè non c'è più acqua a disposizione, c'è una desertificazione galoppante, eccetera. Certo che la stanno contrastando, eccetera, mettendo a cultura, cioè si stanno comprando il Sudan, no? Anche per coltivare derrate alimentari, non soltanto per estrarre petrolio, eccetera. Hanno delle alternative perché sono una grande potenza, ma il nucleare, cioè, è una cosa che non sta in piedi, cioè se il petrolio è una riserva termine, l'uranio è una riserva ancora più a termine. Oggi si dice che ce n'è per 35 anni, al ritmo di consumo che se ne fa oggi. E l'uranio, guardate, è già tutto scoperto, mentre il petrolio uno può sempre pensare di tirarne fuori di più, andando magari a 5-6 mila metri di profondità, andando storto, pompando di più, e quindi di procrastinare, insomma, questa storia qua del picco, eccetera. L'uranio, siccome non si può andare a 5.000 metri a prenderlo, no? Cioè dove c'è, è già stato tutto scoperto. E ce n'è per 35 anni al ritmo di consumo attuale. Cioè ci sono 450 centrali nucleari nel mondo, eccetera. Siccome ne stanno facendo moltissime, e metà dell'uranio che oggi viene utilizzato proviene dallo smantellamento degli arsenali atomici della Russia, dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, parziale, no? Ovviamente. Però quando finirà anche questo, no? Se continuano a costruire centrali nucleari a quel ritmo lì, l'uranio finisce. Certo che dicono ci sarà la quarta generazione, autofertilizzante, eccetera, però per adesso gli autofertilizzanti li hanno fatti, li hanno dovuti chiudere perché erano troppo pericolosi persino per gente che sa rischiare a questo livello. Io non credo assolutamente che l'energia nucleare abbia un futuro, ma non sono io a credere, sono i maggiori esperti energetici, no? Al limite continuano a dire, no? Se andrà avanti come hanno progettato, potrà coprire il 6%, 6-7% del fabbisogno energetico mondiale. Non è assolutamente una soluzione. No? Poi c'è chi ci guarda, per esempio il nostro ministro che si è appena dimesso, Scajola, eccetera, era uno che di tangenti se ne intende molto, e sull'energia nucleare aveva costruito un sistema di potere sulla futura costruzione delle centrali in Italia, aveva già costruito il suo sistema di potere di tangente, eccetera. Però non è una grande prospettiva di... Non si alimenterà una flotta di 800 milioni di veicoli o di 1 miliardo e 600 milioni di veicoli con l'energia nucleare, perché non c'è. Non c'è la possibilità di farlo. Allora, qualcuno cerca di arrivare prima. Sicuramente sia l'Italia che la Svizzera in quel caso arriveranno per ultimi, perché ricordiamoci che si tratta di una risorsa uranio, una risorsa strategica che serve anche per fare le bombe e la guerra, e quindi quelli primi ad accaparrarselo quando si comincerà a sentirne la carenza saranno quelli che hanno la forza e la necessità di utilizzarlo anche per altri scopi. E quindi noi rischiamo di rimanere con le centrali nucleari senza combustibile molto più facilmente di quanto rischiamo di rimanere con le raffinerie e gli impianti di generazione termoelettrica senza petrolio e senza carbone. Io non penso che questa sia una prospettiva, certamente rientra in quel sistema, grandi impianti centralizzati, grandi investimenti di capitali, grandi società finanziarie che li controllano, perché l'energia nucleare non è un'energia diffusa, mentre l'energia solare lo può essere. Poi anche lì stanno pensando anche ai grandi impianti, no? Il progetto di costruire grandi centrali termodinamiche in Sahara e poi di portare l'energia elettrica in Europa, eccetera.